Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini Incrociati siamo a Hell's Kitchen, New York, alla fine degli anni 70, dove un ragazzotto senza arte né parte, che gli amici chiamano Bruno, si aggira tra la 34esima e la 57esima in cerca di un lavoro. Le mani in tasca, un beffardo sorriso sempre acceso. Fischietta e butta l'occhio quando incrocia una bella ragazza. Passando davanti al Radio City Music Hall, si ferma sotto il suo famoso neon e non smette di sorridere perché ama lo spettacolo in tutte le sue forme. Ama il rock, il cinema, lo show business in generale. Se ne va pensando che un giorno ne farà parte. Chissà. Ci occuperemo ancora di lui e per ora lo lasciamo vagare per Manhattan, alla ricerca di un lavoro qualunque, cameriere o barista, a lui non importa. Gli basta continuare a sognare. La storia di Hollywood racconta di molte sue stelle che prima di iniziare a brillare hanno cominciato dal basso, intraprendendo umili mestieri. Lo sanno bene Yusur Danielovich Demski, in arte Kirk Douglas, lottatore dilettante di wrestling, Alfredo Pacino, detto Al, facchino e lustrascarpe, o la cassiera di supermercato più affascinante d'America, Michelle Pfeiffer. Una lista lunga e prestigiosa, ma non una regola. Alcune di queste star, grazie alla bellezza, alla naturalezza dei movimenti o alla spiccata fotogenia, trovano subito la strada di quel firmamento senza fare apparente fatica. La prima stella della storia di oggi brilla già di luce propria quando si presenta al suo primo provino per un film. È alta, bionda, molto bella. Viene da Memphis, nel cuore degli Stati Uniti, culla di leggendari generi musicali e patria di Elvis Presley, che diventerà un giorno suo grande amico. Da piccolo ero un sognatore. Leggevo i fumetti e diventavo l'eroe della storia. Guardavo un film e diventavo l'eroe del film. Ogni sogno che ho fatto si è avverato un centinaio di volte. The dreams come true, sogni che si avverano, ci ricorda Elvis. E la ragazza di Memphis, che fin da bambina si muove disinvolta sulle pedane dei concorsi di bellezza, di fronte alla telecamera del suo primo provino per un film, sa che il suo sogno più grande potrebbe realizzarsi. È agitata e intimorita dal regista, un giovane americano talentuoso il cui nome tradisce le origini dell'Europa dell'Est, Peter Bogdanovich. Il provino è un successo. E la ragazza del Tennessee conquista la parte e il cuore di Peter. Sarà J.C. Farrow, protagonista di L'ultimo spettacolo, ma il suo vero nome è Sybil Shepherd. Sybil Shepherd. What's on your feeble mind, Wayne? See, there's been on a date. Uh-huh. Why don't you just go back to Mexico? I guess girls are just easier to please down there. Chiunque pensi al nome Sybil, quale omaggio dei genitori al personaggio mitologico della Sibilla, cumano o persiana che sia, è fuori strada. Il musicale nome della bionda del Tennessee è la semplice e un poco bizzarra unione del nome del nonno, Sy, con quello del padre, Bill, che insinua il legittimo sospetto che gli uomini di casa Shepherd, sigaro in una mano e un bicchiere di bourbon nell'altra, gradiscano appendere alla porta di casa un nastro azzurro, gradendo meno il colore rosa. Ma qualcosa di azzurro, quando nasce il 18 febbraio 1950 la figlia di Bill e Patty Shepherd, porta comunque in dono due occhi scintillanti a impreziosire un volto d'angelo e boccoli d'oro in tinta con gli immensi campi di Gran Turco della pianura del Mississippi. A soli 16 anni, Sybil è già reginetta di bellezza, proclamata nel 1966 Miss Teenage Memphis. Nonna, ma sono carina. Tu sei la bambina più bella che esiste al mondo. Lo dici tanto per dire. No, io ti amo alla follia e non per il cervello o il carattere che hai. La piccola protagonista di Little Miss Sunshine, di cui abbiamo ascoltato un frammento nella sua interpretazione, spicca più di bravura che di bellezza. E il film stesso è uno spaccato ironico e malinconico dell'America di provincia che fa del successo legato all'avvenenza un comandamento e una scorciatoia per realizzare l'American Dream. Ma spesso con l'unico risultato di portare a un vicolo cieco di speranze disilluse. Al contrario, Sybil Shepherd, alla fine degli anni 60, percorre la strada di un successo che pare segnato. Dopo Miss Memphis è modella dell'anno nel 1968 e così si ritrova catapultata nel mondo della moda ancor prima di terminare le scuole superiori. Passerelle, set fotografici, copertine e primi guadagni. Ma la Sibilla di Memphis è solo agli inizi di una carriera che appare folgorante. Il destino, ancora una volta, le viene incontro docilmente. In che modo? Lo spiega con queste parole Polly Platt, prima moglie del regista Peter Bogdanovich. Ricordo bene quel giorno, nel 1970. Peter ed io eravamo a fare delle spese da Ralph Grocery Store, nel sud della California. In quel periodo lui stava scrivendo un nuovo film, L'ultimo spettacolo, e cercava un'attrice per il ruolo di Jessie, la protagonista. Quando arrivammo alla cassa, notò la copertina di una rivista, mi pare fosse Glamour, che riportava la fotografia di una giovane modella bionda con gli occhi chiari e un volto angelico, ma al tempo stesso determinato. «Questa è Jessie!» esclamò. Comprò la rivista e fece in modo di contattarla al più presto per un provino. Ma credo anche che fu in quell'istante che si innamorò di lei. Il provino per L'ultimo spettacolo è un successo annunciato. Bogdanovich ha in sostanza già deciso, guardando la copertina di Glamour, e deve solo verificare la capacità di Sibyl di stare davanti a una cinepresa. Ma è solo un dettaglio. Sarà lui eventualmente a insegnare, plasmare e a trasformare la ragazza nella sua musa. La Shepherd, 21enne, fa il suo esordio sul big screen al fianco di un altrettanto giovane Jeff Bridges, ricorda Bogdanovich. Sibyl è stata per me fonte di grandissima ispirazione. Mentre giravamo L'ultimo spettacolo, sentivo crescere in me questa attrazione e la riversavo nel mio lavoro. Ero sedotto dalla sua sensualità, ma anche dalla sua sfacciataggine. Lei e Jeff, durante le riprese del film, trasmettevano una forte carica sensuale. Il regista, come nelle più classiche delle storie di Hollywood, si innamora, ricambiato, dell'attrice bella, emergente, più giovane e nel suo caso anche forte di carattere. Cosa che non gli dispiace, ma che renderà la loro storia d'amore nei 10 anni successivi piena di alti e bassi. L'ultimo spettacolo, girato in un impeccabile bianco e nero, è un successo. Shepherd è accolta bene dalla critica, che annuncia la nascita di una nuova stella. E quello di Sibyl è tutt'altro che un ultimo spettacolo. Agli inizi degli anni 70, Sibyl Shepherd da Memphis si presenta come il nuovo volto giovane e fresco di Hollywood, grazie alla sua bellezza, alla classe innata e a quell'aria da brava ragazza americana del ranch accanto che rassicura critica e pubblico. Ma la relazione che inizia con Bogdanovich, più vecchio di 11 anni e soprattutto sposato, non è da tutti ben accolta anche nello smaliziato mondo dello star system. Ma nulla che possa turbare il regista e la bionda attrice, che rispondono alle critiche ritornando al lavoro per Daisy Miller, film di discreto successo tratto dal romanzo di Harry James. È proprio con questo film che la Shepherd attira l'attenzione di Martin Scorsese, che nel 1975 la vuole per il ruolo di Betsy in Taxi Driver, al fianco di Robert De Niro. Qui li ascoltiamo nella scena del loro primo incontro. Ma cosa vuole con esattezza? Vuol venire a prendere un caffè insieme a me. Perché? Perché? Sì. E glielo dico subito. Perché lei si sente sola. Io ci passo molto spesso qui davanti e la vedo. Vedo sempre un sacco di gente insieme a lei. E vedo tutti questi telefoni, tutta questa roba sul tavolo. Non significa niente. E poi quando sono entrato e l'ho vista, e ho visto i suoi occhi, e ho visto come muove la testa, ho capito che non è felice. E che ha bisogno di qualche cosa. E secondo me questa cosa di cui ha bisogno è un amico. Lei vuole essere mio amico? Sì. Che decide? Guardi, non è facile star qui a chiederglielo, eh? E su, 5 minuti mi bastano. E qui a 2 passi, proprio all'angolo, sarò il suo cavaliere. Andiamo, 5 minuti di pausa. Beh, io ho la pausa alle 4, se lei mi aspetta. Alle 4 oggi? Sì. Io l'aspetto. Ne sono convinta. Va bene, alle 4. D'accordo. Davanti all'entrata, eh? Sì. Beh, io mi chiamo Travis. Betsy. Travis. Sì. Molte grazie, Betsy. La storia è nota. Taxi Driver diventerà un film di culto, consacrando Scorsese e De Niro tra i più grandi di sempre e dando battesimo a una giovanissima Jodie Foster che nel ruolo della baby prostituta Iris inizia una carriera in continua ascesa. Per Sibyl, invece, il destino sembra parlare con lei in tono di sfida, parafrasando una delle migliori battute recitate da De Niro nel film. È lo stesso attore italo-americano a percepire fin dai primi Chuck qualcosa che non va. Noto per il suo maniacale perfezionismo e la dedizione assoluta al ruolo, sente che la collega non è alla sua altezza, che le mancano i fondamentali, una scuola, che forse è solo una raccomandata. E lo fa chiaramente capire, arrivando a non rivolgere mai la parola a Sibyl durante tutta la lavorazione. Solo le grandi capacità direttive di Scorsese riescono a fare in modo che la recitazione della Shepherd in un film di così alto livello riesca a raggiungere uno standard di sufficienza. Forse De Niro è stato troppo severo e la critica troppo impegnata a celebrare lui piuttosto che notare la performance inadeguata di Sibyl, ma dal 1976, data di uscita della pellicola, per lei inizia un periodo davvero difficile, nel quale non le viene offerto nessun ruolo importante, ma solo film minori. Alla fine del decennio, anche la storia d'amore con Bogdanovich volge al termine. Alla fine del 1978 telefonai a mia madre. Piangevo, ero disperata e infelice per come stavano andando le cose nella mia vita e nella mia carriera. E ricordo che lei mi disse soltanto: «Sibyl, torna a casa, tesoro». Così non ci pensai un attimo e tornai dalla mia famiglia a Memphis. In fondo non avevo ancora 30 anni e tutto era successo così in fretta. Andrai, ritornerai, in guerra non morirai. È questo il tradizionale responso della Sibilla dei tempi antichi dato a un soldato in procinto di partire per la guerra. Sibyl è andata alla guerra dello show business e ora è ritornata. La sua vita riprende cadenzata da lezioni di canto, la sua grande passione, e da frequentazioni di persone comuni come David Ford, venditore di autoricambi di Memphis, che sposa nel 1978 e dal quale ha la prima figlia, Clementine. Il matrimonio con Ford dura 4 anni, durante i quali Sibyl scompare letteralmente dalla scena hollywoodiana, ma nel 1982, constatato il fallimento del loro rapporto, decide che è il momento di darsi un'altra chance. In fondo, ha solo da poco passato i 30 anni ed è ancora bellissima. Ha fatto l'esperienza e decide così di giocare una nuova partita col destino. Pensa di ripartire dalla televisione, un ambiente difficile, ma lontano dalle false sirene degli studios, e si presenta al casting di Yellow Rose, serie televisiva basata sulla vita nel ranch della famiglia Champion in Texas, in procinto di essere prodotta dalla NBC. La ragazza dimenticata da Hollywood, che ha recitato con Bridges e De Niro, ottiene facilmente la parte di Colleen Champion, la protagonista, al fianco di Sam Elliott. You've traveled down some dusty roads, slept out in the rain, but this yellow rose is always here when you come home again. She knows I've been some hard times. You stumbled and you fell. I just kept your pride from dying. You saved my soul from hell. She's a diamond of the desert. She's the golden flower of spring. She's the yellow rose of Texas. She can make a man. A Destini Incrociati è il 1984 e Sibyl Shepherd sta girando in Texas gli episodi della prima stagione della serie televisiva Yellow Rose. La sua carriera si è rimessa in moto e lei confida molto in questa nuova opportunità. In quello stesso anno a Manhattan, un aitante giovanotto soprannominato Bruno, che abbiamo lasciato per le strade di Hell's Kitchen in cerca di lavoro, ha preso a sua volta una decisione importante. Lavora da qualche tempo al Central Café, un locale di New York dove fa il barista. Ma quella vita gli va stretta. Ha bisogno di respirare aria nuova, di cercare altre opportunità per seguire quel sogno di recitazione che in lui non si è mai spento. Quell'anno a Los Angeles ci saranno le Olimpiadi e lui, grande amante dello sport, decide che è un'occasione da non perdere. Assistere all'evento olimpico e magari cercare una strada per entrare a Hollywood. Bruno decide in un momento e se ne va senza un saluto. Nella lista passeggeri del volo New York-Los Angeles di quell'estate 1984 c'è anche il suo nome, quello di battesimo, Walter Bruce Willison. Ma presto sarà conosciuto solo come Bruce Willis. Sei capace solamente di criticare. È già abbastanza dura con due figli, un terzo non mi sento. Sì, hai ragione, sei perfetta. Io non ho fatto niente di giusto in 15 anni. Tu non mi stai ascoltando. Non ti va mai bene niente. Non si è mai detto che tu ascolti. Detto ti attacchi a ogni minima cosa. E figuriamoci se ti prendi delle responsabilità. Sono buono a criticare ogni cosa che fai. L'ex barista Bruce Willis, che abbiamo sentito duettare con l'ex cassiera del supermercato Michelle Pfeiffer, in questo stralcio da storia di noi due, sbarca a Los Angeles senza una minima idea di cosa lo attende. Ma come nel film di Rob Reiner, in cui reciterà anni dopo, ad attenderlo al varco del destino c'è un'altra bionda, bella e raffinata come la Pfeiffer, della quale sembra essere la sorella maggiore. The Yellow Rose, nel frattempo, ha ricevuto una buona accoglienza della critica, ma non quella del pubblico, e la NBC decide di chiudere la serie dopo la prima stagione. A Sybil, tuttavia, questo periodo è bastato per rientrare nel giro, e le è immediatamente proposto il ruolo di Madeline Maddie Hayes in Moonlightning, futura serie di culto prodotta dalla ABC, per il quale il volto e la fisicità di Sybil si adattano perfettamente al ruolo. Un'ex modella, divenuta detective a capo di un'agenzia di investigazioni private. Scritturata la Shepherd, è la volta di trovare il partner maschile per il ruolo di David Addison, il socio di Maddie nell'agenzia. Si apre il casting e più di 2000 pretendenti si presentano al cospetto di Glenn Gordon Caron, lo sceneggiatore della serie, e di Sybil Shepherd. Walter Bruce, detto Bruno, confuso e speranzoso, siede tra i tanti nella sala d'aspetto della ABC, in attesa di essere chiamato. Dimenticare. Destini incrociati. A Destini incrociati è la fine del 1984. Bruce Willison, un trentenne di New York, è in attesa del provino per l'assegnazione della parte di protagonista maschile in Moonlightning, serie televisiva della ABC, per la quale è già stata scelta la protagonista femminile, Sybil Shepherd, un'attrice nativa di Memphis, nota per aver recitato in Taxi Driver ed essere stata la compagna di Peter Bogdanovich. 2000 pretendenti si sono già alternati di fronte a Glenn Caron, lo sceneggiatore, e alla stessa Shepherd, che forse è memore dei problemi avuti con Robert De Niro in Taxi Driver, vuole sentirsi a suo agio fin dall'inizio, partecipando alla scelta del nuovo attore. Sentiamo il suo ricordo. Avevo l'approvazione del casting di Moonlighting, e quando il mucchio degli aspiranti al ruolo di David Addison fu vagliato sino a una dozzina, andai a incontrarli. Verso la metà del pomeriggio ero stanca e stavo spiluzzicando tonno e lattuga dalle insalate che erano state portate per pranzo, quando Bruce Willis entrò nella stanza. Lui era più giovane di me di 5 anni. Indossava una giacca a armi, alcuni orecchini e quella che sembrava essere una barba di 3 giorni che compensava la calvizie incipiente. Il resto dei capelli tagliati alla punk. Gli occhi erano maliziosi e le labbra strette in un sorriso di sfida che doveva poi diventare la firma del sorrisino compiaciuto di David Addison. A differenza degli altri attori che avevano partecipato all'audizione, lui non mi adulò particolarmente. In realtà evitava di incontrare il mio sguardo. Ma c'era di sicuro alchimia tra noi e non sfuggì a nessuno. La temperatura nella stanza balzò a 20 gradi. Dopo che se ne fu andato, dissi a me stessa e a Glenn: è lui. L'unico modo perché Bruce Willis fosse preso in considerazione era che io acconsentissi a fare un provino con lui. Con la telecamera che roteava intorno a noi, lui mi guardò con soddisfazione e disse: non posso concentrarmi, sei troppo splendida. E tutti si convinsero. Forse Bruce Willis non ha mai creduto fino in fondo di poter ottenere la parte, o forse non si è bene informato sul tipo di personaggio che avrebbe dovuto interpretare. Ma certo è che il look con il quale si presenta al casting è molto più simile a quello di tanti personaggi che avrebbe interpretato nel seguito della sua carriera, che non a quello in giacca e cravatta corrispondente al sornione detective Addison. Ma come abbiamo sentito dalle parole di Sybil, a colpirla di lui è il sorriso di sfida, la mancanza di soggezione nei suoi confronti e della produzione. Insomma, una bella faccia tosta che le ricorda in qualche modo i primi tempi della carriera. Ma chi è davvero questo sconosciuto e affascinante trentenne? Facciamo un passo indietro e andiamo a conoscerlo meglio. Ider Oberstein, 19 marzo 1955. Presso la base militare americana della piccola cittadina tedesca, nella Renania Palatinato, nasce Walter Bruce Willison. Il padre David distanzia Baumholder, l'installazione militare con la più alta concentrazione di soldati americani fuori dagli Stati Uniti, ha conosciuto l'anno prima della nascita di Bruce Marlene, una bella ragazza di Kassel dai grandi occhi verdi, che sposa poco prima della nascita del primogenito. Nel 57, finito il servizio di David, la famiglia, nel frattempo ingrossata dalla presenza di Firenze, sorella di Bruce, così chiamata in omaggio al grande amore della madre per la città toscana, ritorna negli Stati Uniti, a Pence Grove nel New Jersey, dove nasceranno David Jr. e Robert, i due fratelli minori. Willis racconta così la sua infanzia. Sono cresciuto in campagna. Mio padre faceva l'agricoltore, 18 ore al giorno, e non aveva tanto tempo per correrci dietro. Sono cresciuto in maniera un po' selvaggia, anche perché i miei si sono separati presto e gli amici con cui a quei tempi vagavo per i sobborghi sono diventati la mia famiglia. E poi c'era il problema della balbuzie. A scuola mi chiamavano Buck Buck e qualche volta ridevano di me, ma mi sono sempre fatto rispettare, sai. Se c'era da dare un calcio in culo a qualche bulletto, beh, di certo non mi tiravo indietro. E poi non ridevano più. Finita la scuola superiore senza grandi risultati, Bruce cerca di dare una mano a casa, facendo lavoretti in linea con la sua fama da duro. È guardia di sicurezza, guida camion, lavora in qualche bar e nel tempo libero suona in una rock band, forse la sua più grande passione. Ma la balbuzie continua a essere un problema e Bruce raccoglie il consiglio di iscriversi a una scuola di recitazione, dove gli avrebbero insegnato a esprimersi correttamente. Tuttavia, l'irrequieto ragazzo del New Jersey non è soddisfatto. La recitazione gli piace e riesce anche a superare il difetto di pronuncia, ma la vita disciplinata di una scuola gli va stretta. Vuole divertirsi, andare nei bar e cercare ragazze, bere parecchio e talvolta fumare dell'erba. Lo ammette lui stesso in una recente intervista. A quei tempi mi sono trasferito a Manhattan e volevo solo divertirmi. È stato il periodo più spensierato e irresponsabile della mia vita. Ho bevuto troppo, fumato troppo e per vivere mi bastavano $10 al giorno. Avrei vissuto per sempre con una pizza e una birra. La notte andavo a ballare, sempre un po' sballato, ma la mattina al lavoro ero sempre puntuale. Mi piaceva talmente bere che mi ero messo a fare il barista al Central Café. Ma certo, così non poteva durare. Poi un giorno ho deciso e da un giorno all'altro mi sono trasferito in California. Dovevo cambiare ambiente, diciamo che mi è andata bene. Era il 1984, a Los Angeles c'erano le Olimpiadi e la cosa per me era già più che sufficiente. Celebrating the 23rd Olympiad of the modern era, I declare open the Olympic Games of Los Angeles. Los Angeles 84, giochi della 23esima Olimpiade. Dopo il boicottaggio americano a Mosca nel 1980, questa volta è tutto il blocco sovietico a non presentarsi alla manifestazione, rendendo ancora una volta vano il messaggio olimpico di fraternità. Ma i giochi sono comunque bellissimi e consacrano Carl Lewis come uno dei più grandi sportivi di sempre. L'atleta afroamericano vince infatti 4 medaglie d'oro nell'atletica, eguagliando il primato del connazionale Jesse Owens di 50 anni prima. La minore concorrenza dei paesi dell'est porta l'Italia a stabilire il suo miglior record di sempre nella conquista delle medaglie d'oro, che alla fine dei giochi saranno 14, alle spalle della Germania Ovest che ne conquista 17. Bruce Willis, per metà tedesco, è sicuramente contento dell'exploit dei connazionali della madre, ma è ancora più felice da qualche settimana di godersi il sole della California. Tra una tequila sunrise e un tuffo nel Pacifico, si informa anche della possibilità di presentarsi a un qualunque casting di Hollywood e, finalmente, le strade dei nostri protagonisti si incrociano negli studi della ABC. Per Willis inizia una carriera che lo porterà molto lontano. She dances with or without a friend. Hooray for Hollywood, where you're terrific if you're even good. Go out and try your luck, you may be down or not. Hooray for Hollywood, hooray for Hollywood. Hey, Nick, how you doing? John McClane nei 3 episodi di Die Hard. Butch in Pulp Fiction, Malcolm Crowe nel Sesto Senso. Sono solo alcuni dei più noti personaggi interpretati da Willis nel corso di una carriera ormai quasi trentennale. Ma è David Addison, il vulcanico e ironico detective di Moonlighting, il personaggio al quale Bruce è più affezionato e al quale deve l'origine della sua fortunata carriera. In questa scena lo sentiamo organizzare una comica festa di compleanno per Maddie con scarsi risultati. David, are you in there? David, where is everybody? David, I'm coming in. And they say nothing works like breadcrumbs. Surprise! Bruce e Sybil nei rispettivi ruoli funzionano bene e la serie ottiene ottimi ascolti tanto da indurre la ABC a produrre 67 episodi nell'arco di 4 anni. In Italia la serie prende il nome di Agenzia Blue Moon e la miscela di giallo poliziesco e commedia romantica, unita alla bravura e all'alchimia dei due protagonisti, riscuote successo anche da noi. Probabilmente qualcuno vede in questo affiatamento qualcosa di più, un'intesa tra i due che forse trascende lo schermo. Sybil Shepherd, nella sua autobiografia dal lungo e stucchevole titolo La disobbedienza di Sybil, come sono sopravvissuta a concorsi di bellezza, Elvis, sesso, Bruce Willis, bugie, matrimonio, maternità, Hollywood e la voglia irrefrenabile di dire quello che penso, mette però le cose in chiaro con queste parole. Quasi subito abbiamo litigato, a telecamere spente, appena prima di farlo nel copione. Ma sembrava un innocuo modo per giungere al culmine dell'emozione durante la scena. Non mi sfuggì però il fatto che la crescente attrazione tra Maddie e David rispecchiava quella che si stava sviluppando tra noi. In seguito a una prova particolarmente calda, me ne andai dal set e dissi: «Ne faremo qualcosa di tutto ciò?». Lui sembrò sorpreso, ma non in modo spiacevole. Poi esibì il suo consueto mezzo sorriso e disse: «Che ne diresti se venissi a casa tua stasera?». C'era una bottiglia di whisky nella sua mano quando bussò alla porta del mio appartamento e non passò molto tempo prima che ci stessimo baciando appassionatamente. «Forse non dovremmo farlo», mormorai, consapevole delle potenziali complicazioni. «Potremmo lavorare insieme ancora per molto tempo». Ma eravamo ormai persi, mezzi sdraiati su una poltrona che si stava inclinando quasi al punto di rovesciarsi. E improvvisamente si fermò e mi guardò corrugando la fronte. «Forse hai ragione», disse. Riordinando se stesso come i vestiti che gli erano rimasti indosso, aggiunse: «Penso che andrò in bagno». Quando fu di ritorno, borbottò qualcosa e se ne andò. Forse Bruce amava di più la caccia che la cattura. O forse preferiva il personaggio alla donna reale. Non finimmo mai ciò che avevamo cominciato in privato, ma ogni volta che dovevamo baciarci sulla scena mi cacciava mezza lingua in gola. Probabilmente il motivo principale del rifiuto di Bruce deriva dal fatto che lui preferisce le more alle bionde, come chiarisce a tutto il mondo sposando nel 1987 Demi Moore, allora attrice emergente di ascendenza nativa americana e dal viso affilato e altero, con lunghi capelli neri. L'esatto contrario di Sybil Shepherd. Ma la cosa più importante, forse inquietante, è che ancora una volta la carriera di un partner cinematografico di Sybil prende il volo. Dopo Jeff Bridges e Robert De Niro, ora anche per Bruce Willis il cammino per l'Hollywood Walk of Fame è sempre più in discesa, lasciando lei nel limbo di una popolarità che non decolla mai veramente. Destini incrociati. A Destini Incrociati abbiamo visto muovere i primi passi della carriera di Bruce Willis, oggi superstar hollywoodiana strapagata e potente, grazie all'incontro con Sybil Shepherd, ex modella del Tennessee e attrice alla perenne ricerca di consacrazione. Grazie al successo della serie televisiva Moonlighting, il primo inizia un'ascesa inarrestabile verso il successo. La seconda, per l'ennesima volta in carriera, deve lasciare strada. Nonostante i due Golden Globe nel 1986 e 1987 come migliore attrice protagonista per una serie TV e un rinnovato favore di critica e pubblico, dopo la chiusura di Moonlighting nell'89, per Sybil inizia un nuovo periodo difficile. Nessun ruolo di rilievo le viene offerto negli anni seguenti e ancora una volta una sua partecipazione a un film dal titolo Uno strano caso al fianco di Ryan O'Neill rappresenta il trampolino di lancio per un altro talentuoso attore, Robert Downey Jr., che mette in luce doti di recitazione ben superiori a quelle dei due più blasonati colleghi. Nonostante la partecipazione a pellicole minori e qualche cameo prestigioso, per Sybil gli anni 90 rappresentano un nuovo ritorno nell'oblio. Per Bruce Willis, invece, il destino ha distribuito altre carte. Nel 1989 interpreta John McClane in Die Hard, Trappola di Cristallo, il primo di molti ruoli che lo caratterizzeranno come l'action hero per eccellenza nei successivi 20 anni. Voi non avete idea di chi avete di fronte. Ora ci penso io. Hai abbattuto un elicottero con una macchina! Ero senza pallottole. La canottiera bianca intrisa di sangue sopra le spalle guizzanti di muscoli, il viso perennemente pesto e l'espressione vagamente annoiata di chi deve salvare il mondo, anche se quel giorno ha altro da fare, fanno di McClane Willis un antieroe sempre sull'orlo del disastro, ma che alla fine se la cava. Una recitazione che è una via di mezzo tra le inespressive montagne di muscoli di Schwarzenegger e l'aria da gigante suonato e troppo buono di Sylvester Stallone, condita con maggiore ironia, ma con la stessa capacità di rassicurare il pubblico che i buoni a stelle strisce alla fine vincono sempre. E non è un caso che sia proprio con Schwarzy e Sly, nel frattempo divenuti suoi amiconi, che Bruce, nel 1991, si mette in affari per lanciare la catena di ristoranti Planet Hollywood, una sorta di Hard Rock Café ispirato al mondo della celluloide. I locali rappresentano per Bruce anche un'opportunità per sfogare la sua prima inalterata passione, la musica rhythm and blues. Assieme ai Bruce Willis and the Accelerators, produce e suona un album dal titolo evocativo della sua dissipata gioventù, The Return of Bruno. La voce roca, la maglietta bianca sul jeans liso, la lucida pelata e gli eterni occhiali da sole sono l'immagine che Willis, attore cantante, costruisce di sé negli anni, trascinandola di forza nello schermo per ruoli che molti definiscono tutti uguali, ma che alla fine riescono sempre a strappare un sorriso di simpatia anche ai suoi detrattori. Ma l'uomo in realtà è fatto di tutt'altra pasta. Definito generoso e attento alle problematiche sociali, repubblicano dichiarato ma contraddittoriamente pacifista, innamorato e teneramente succube delle tre figlie che, complice Demi Moore, dalla quale divorzia nel 2000, è riuscito a chiamare con nomi talmente improbabili da sembrare personaggi di un film, Scout LaRue e Taluya Bell, con buona pace di tutti i santi del calendario. Le mie figlie non mi prendono mai davvero sul serio e io non alzo mai la voce con loro. Mi guardano e si mettono a ridere. Pensano che stia recitando un personaggio. La realtà è che io non sono un vero duro. Magari ho vissuto da duro, ma oggi non ne ho bisogno. Con le ragazze parliamo di tutto e le ho abituate ad avere grande autostima, cosa che mio padre non aveva mai fatto con me. Quando io ed Amy ci siamo separati, siamo stati attenti a non farle soffrire troppo. Andiamo in vacanza assieme a loro e ai nostri rispettivi compagni. Siamo presenti e risolviamo i loro problemi, come una normale famiglia, anche se poi mamma e papà vanno a dormire in posti diversi. Mentre la carriera e gli affari di Willis viaggiano a gonfie vele per tutti gli anni 90, Sybil Shepherd fatica a ritrovare il bandolo di una carriera inspiegabilmente a intermittenze. Dopo le ultime deprimenti prove, decide che ne ha abbastanza del cinema e pianifica un nuovo ritorno in televisione. Sybil si convince che se la fortuna non sempre le ha arriso, il talento però non le manca e con esso l'esperienza, l'intelligenza e una certa capacità di non prendersi mai troppo sul serio. Decide di mettere tutto questo al servizio di un'idea. Una serie televisiva autobiografica e autoironica di una star sbiadita sulla cinquantina e in cerca di riscatto. Il titolo, nemmeno a dirlo, è Sybil. una serie destinata al successo che la Shepherd produce con la CBS per ben 87 episodi spalmati su 4 anni che le varranno la conquista del terzo Golden Globe nel 1997. Ciò che mi ha sempre causato dei problemi è stata la disobbedienza. Sin dall'inizio la mia strategia consisteva nello sfidare, sempre con ironia, gli stereotipi sui soggetti capaci di guadagnare ascolti televisivi. Abbiamo sfidato l'ingiustizia di una cultura che considerava invisibili le donne oltre i 40 anni. Questi temi sono stati considerati sostanziali dagli addetti ai lavori, ma le donne che non entrano in una 42 non sono troppo benvenute in nessun media. Dopo quasi un decennio passato a mormorare perché io valgo per L'Oréal, sono stata licenziata perché i miei capelli erano diventati troppo vecchi, più o meno tanto vecchi quanto lo ero io. Ma la CBS ha creduto in me e alla fine ho avuto ragione. Sybil, tranne che per qualche apparizione in pellicole minori, non tornerà più al mondo del grande schermo. Dopo Sybil, sono innumerevoli le produzioni televisive che la vedono impegnata nel ruolo di attrice, produttrice e ideatrice di series, facendola diventare una delle donne più potenti dell'intricata giungla del broadcasting americano. Oggi, a 61 anni e 3 figli da 2 matrimoni, attivista convinta per i diritti delle donne, Sybil, nonostante i segni lasciati sul suo corpo da pesanti cure per un tumore al seno, è ancora una donna molto bella e piena di fascino. Soprattutto, una donna in pace con se stessa. Attore affermato, uomo felicemente risposato con l'attrice modella Emma Heming, di 23 anni più giovane, proprietario di locali alla moda e ristoranti, l'ex perdigiorno chiamato Bruno, sempre senza un dollaro in tasca, oggi raramente scende sotto i 20 milioni di dollari per accettare che qualcuno lo riempia di cicatrici posticce e sangue sintetico. Soldi meritati, pensa Bruce. Del resto, non c'è film in cui non lo pestino, lo ammazzino o provino a violentarlo come nella memorabile scena dello scantinato in Pulp Fiction. Anche se forse il ruolo per cui è più noto è quello in cui è già morto fin dall'inizio. Il fantasma del dottor Malcolm Crowe nel celebrato Il Sesto Senso di M. Night Shyamalan. Chissà se Bruno ha il tempo di pensare ogni tanto a quei giorni a Los Angeles e al provino di Moonlighting, dove è diventato Bruce Willis grazie all'intuizione di una ragazza bionda e bellissima, spesso talismano di fortuna per chi le è stato accanto. Del resto non può che ringraziarla. La Sibilla americana ha predetto per lui un futuro da stella che splende ancora luminosa in un firmamento di celluloide. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.